Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 27 gennaio, bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradio ascoltatori. Siete su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E io do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Passiamo subito alle notizie sul carcere, ma legate alla ricorrenza che si celebra oggi, che è il 27 gennaio, la giornata della memoria. Ricordiamo questa giornata con la notizia di oggi, che la leggo da bergamo.it. Si parla del carcere di Sant'Agata, nella città alta di Bergamo, dove erano detenuti uomini e donne prima di essere deportati in Germania. Ma chiaramente la ricostruzione delle storie dei deportati, delle prigioni della città alta durante la Seconda Guerra Mondiale è stata trasferita proprio in occasione della giornata della memoria in un libro di cui vi racconterò più avanti. Caterina, facciamo un passo indietro. Di che cosa facciamo a memoria il 27 gennaio? Guarda, il 27 gennaio è stata proclamata per legge dalla Repubblica Italiana Giorno della Memoria, con lo scopo di ricordare l'Olocausto, ovvero la data in cui nel 1945, proprio oggi, venne scoperto il campo di Auschwitz, che si mostrò agli occhi del mondo col suo carico di orrori e di violenze. È stata scelta non a caso la data di oggi proprio perché appunto nel 27 gennaio del 45 le truppe sovietiche della 60esima armata del primo fronte arrivarono alle porte della città di Oswiecin, rinominata, e gli uomini del maresciallo Ivan Konev si accorsero del vicino campo di concentramento, e così da quel giorno la scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti testimoniarono per la prima volta in maniera completa al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. Ed è una ricorrenza che anche l'amministrazione comunale di Bergamo ha scelto di ricordare, realizzando un calendario di appuntamenti con le principali istituzioni culturali cittadine, che si svolgerà chiaramente necessariamente online, sempre a causa della pandemia. Al centro della narrazione celebrativa del 2021 c'era l'anno scorso il carcere di Sant'Agata, e anche quest'anno sempre il carcere di Sant'Agata, con il libro Se quei muri potessero parlare di Elisabetta Ruffini, una storia che raccoglie le testimonianze di uomini detenuti e donne detenute nelle prigioni della città alta prima di essere deportati in Germania. Tra questa fiora la storia di Alessandro Zappata, che pensate voi era una guardia carceraria che è stata molto vicina ai detenuti e anzi ha aiutato molti anche a fuggire prima di essere deportati. A Milano lo si credeva guardia del carcere di San Vittore, e poi solo il confronto tra alcuni studiosi ha permesso di risalire invece al carcere di Bergamo, dove svolgeva il suo ruolo, e è morto proprio da deportato proprio per aver aiutato le persone a fuggire. Senti, proprio perché è morto proprio da deportato, come hanno fatto a risalire alla sua storia? Guarda, dietro chiaramente vi è la collaborazione di studiosi, e in particolare la collaborazione tra l'Istituto Bergamasco per la storia della resistenza dell'età contemporanea e il Comitato per le Pietre d'Inciampo di Milano. E così le ricerche hanno fatto sì di ricondurre e ripristinare gli ultimi 20 mesi della Seconda Guerra Mondiale a Bergamo. Il carcere di Sant'Agata era allora un crocevia di interscambio tra perseguitati politici, ostaggi, militari tedeschi e disertori, e anche cittadini dichiarati per legge di razza ebraica. Caterina, prima hai detto che ci saranno eventi online, giusto? Sì, sono due le iniziative in programma, fruibile entrambe dal canale YouTube del Comune di Bergamo, scelte per celebrare questa giornata. La prima è una testimonianza realizzata dal liceo scientifico Lorenzo Mascheroni su Andra e Tatiana Bucci, due bambine che sono state ricordate anche per rappresentare la condizione infantile sia nella Shoah sia nelle situazioni di violenza e di conflitto generale. E poi la seconda è la presentazione di un video che raccoglie fotografie e letture di testi dedicati alla persecuzione degli omosessuali da parte dell'antifascismo. Quindi, se volete, potete andare sul comune di Bergamo, sulla pagina, cercare la pagina YouTube e poter visitare queste due importanti mostre e anche visionare il libro. Ma rimaniamo con una canzone prima di passare alle notizie con Antonella, con Guccini, Auschwitz. Passato per il cammino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo d'inverno. E adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. E rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Dopo la pausa musicale siamo con te, Antonella, e apriamo una finestra dal Sudafrica. Sì, Caterina, è stato un inizio d'anno complicato per il Sudafrica, dove il 26 dicembre è morto a 90 anni l'arcivescovo Desmond Tutu, uno dei leader della lotta contro l'apartheid, famoso in tutto il mondo. Esponente della Chiesa anglicana, noto per le sue posizioni progressiste, è stato a lungo considerato la guida morale del paese e fu chiamato a presiedere la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, un tribunale speciale di giustizia riparativa, e poi noi di giustizia riparativa ne parliamo tantissimo, lo sapete, quindi ci sta ancora più a cuore, il cui obiettivo era guarire le ferite dell'apartheid, ferite che sono tutt'altro che risanate. La sua scomparsa, infatti, scrive il New York Times, ha riacceso il dibattito sul processo di riconciliazione e lo stato della democrazia nel Sudafrica di oggi. Infatti, Caterina, ti meraviglierai, ma l'opinione più diffusa è che il percorso cominciato in questi anni non sia mai arrivato fino in fondo. Molti responsabili dei crimini dell'apartheid non sono mai stati puniti per le loro colpe e le diseguaglianze tra bianchi e neri, in particolare nel possesso della terra, ricchezza e capitale, sono ancora enormi. Senza contare che l'African National Congress, il movimento guidato da Nelson Mandela, è diventato un enorme ricettacolo di corruzione, e a ricordarlo è stata una pubblicazione il 4 gennaio della prima parte del rapporto della commissione d'inchiesta indipendente guidata dal giudice Raymond Zondo. Pensate, 4 anni di lavoro, quasi 300 testimoni ascoltati e quasi 1 miliardo di rand, cioè 56 milioni di euro, sono serviti a mettere nero su bianco come funzionava il sistema di corruzione e predazione delle risorse dello Stato. Si parla del saccheggio della compagnia aerea di Stato e dello smantellamento delle capacità investigative dell'Agenzia delle Entrate, tanto per fare qualche esempio, inaugurato poi sotto appunto la presidenza di Zuma, il predecessore dell'attuale capo di Stato Cyril Ramaphosa. Il rapporto contiene anche utili suggerimenti su come evitare che si ripetano frodi e appropriazioni indebite. Ti chiedo, ci si è mai chiesti come risolvere questo problema così grosso? Cioè, chi lo può fare se non la politica? Caterina, stai toccando proprio la dolente nota. Ti rispondo con le parole della giornalista Juanita Hunter su News 24. La soluzione non può essere affidata al governo dell'African National Congress né ai dirigenti del partito, che ricoprono incarico di primo piano in tutte le istituzioni. In Sudafrica gli appalti pubblici sono scene del crimine e non c'è una sola parte che non sia stata contaminata. Comunque la richiesta è che questa volta si vada fino in fondo e non ci si limiti a dare l'impressione di aver fatto qualcosa per affrontare il problema poi senza insomma concretizzare. La fiducia nello Stato, come puoi immaginare, non è mai stata così scarsa. Lo ricorda anche Jason Burke sul Guardian, raccontando come le comunità locali si siano organizzate da sole per fornire quei servizi di base che le istituzioni non sono più in grado di erogare. Pensa te, si sono dovuti organizzare praticamente. E se l'incendio doloso, che ricordiamo, del Parlamento di Città del Capo è un'immagine che sembra riassumere la gravità della situazione, ci sono però almeno due notizie positive. Soprattutto la prima, secondo me. Il 28 dicembre un tribunale ha messo le ragioni della comunità, delle comunità locali e delle organizzazioni ambientaliste davanti a quelle di un gigante del petrolio, imponendo alla Shell di sospendere le prospezioni petrolifere al largo della Wild Coast, un'area di grande valore naturalistico dove molti vivono tra l'altro di pesca. E la seconda cosa positiva è che il paese ha superato senza troppi danni il picco dell'ondata di Covid-19 causata dalla variante Omicron, con dati rassicuranti sulle morti e sull'ospedalizzazione, che però è un dato abbastanza comune perché in realtà pare che l'Omicron sia un attimino più clemente delle altre varianti. E, passiamo alla musica, Caterina, che dici? Io proporrei l'emblema del Sudafrica, cioè Miriam Makeba, con Jolene Komo. Ascoltiamola perché è una canzone di incoraggiamento ed è proprio tipica del repertorio sudafricano. E poi non andate via perché c'è Beatrice Orlandini, editrice Ziccaro, e Alice Rocchi, curatrice del libro Vivere nonostante tutto, intervistate da Caterina. A dopo. Thank you so much, ladies and gentlemen. Our next song is a South African song, like most of our songs. And it comes from Pondoland in the Eastern Cape, where my father came from. In the olden days, the young Xhosa maidens often sang this song in praise of the young Xhosa braves as they would get ready to go out into battle. In other words, it's a song of encouragement. We call it Xolinko. Jolinko Motula Hajamile Matota Jolinko Motula Hajamile Matot Was it Jamile Hinjingan and Joli Kao Tore Kaloku Was it Jamile Hinjingan and Joli Kao Tore Kaloku Ay Jolinko Motula Hachamile amatota, Sholinko matola, Hachamile amatota, Haizi chamile hinjingane choli, Kau chole kaloku, Woyazi chamile hinjingane choli, Kau chole kaloku. E rieccovi, bentornati a tutti i nostri teleradioascoltatori, siamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio TV e gli ospiti di oggi, li vedete, sono qui tutti e tre con me, sono Beatrice Orlandini dell'editrice Ziccaron, Angelo Baldassarri, autore del libro Fare tutto il più possibile, di cui ci racconterà, e Alice Rocchi, curatrice del libro Vivere nonostante tutto. Grazie di essere qui, buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Allora, oggi questa intervista, diciamo, a multivoce è in occasione della Giornata Internazionale della Memoria, che, lo ricordiamo anche noi di Eduradio, è celebrata ogni anno proprio il 27 di gennaio per ricordare la liberazione nel 1945 del campo di Auschwitz e poi l'emersione per la coscienza di tutti civile di che cosa è stato l'Olocausto. Quindi ho il piacere di avere questi ospiti per parlare di questi volumi, questi due volumi che ci presenta ora Beatrice Orlandini, che escono proprio in occasione di questa giornata. Buongiorno a tutte e a tutti. Faccio una premessa. Il nome stesso della nostra casa editrice, Zikaron, è una parola ebraica che significa memorie, proprio perché quello che noi vogliamo fare è studiare e raccontare le memorie del passato e soprattutto dando voce alle testimoni e ai testimoni di quelle vicende. In particolare, noi cerchiamo di approfondire e raccontare le vicende legate agli eccidi di Montesole ed è in questo contesto che nascono i due libri che raccontiamo oggi. Dico due cose velocissime sugli eccidi. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 i soldati nazisti uccidono sulle colline attorno a Montesole 770 persone, anziani, donne e bambini in un'ottica di annientamento della popolazione civile, tanto è vero che bruciano le case, uccidono gli animali, insomma, e vogliono distruggere la vita sulle colline. E le due storie che raccontiamo e presentiamo oggi si inseriscono in questo contesto. Il primo libro è la storia di Cornelia Paselli, che è una giovane ragazza all'epoca degli eccidi, ha 18 anni ed è testimone di questa violenza impensabile. È il primo libro, Vivere nonostante tutto. Ed è una storia molto, molto bella, pur nella sua tragicità, proprio perché Cornelia riesce, pur assistendo a queste vicende così tragiche, sceglie di vivere e poi da più grande di raccontare, come dice lei, proprio perché questo racconto sia di monito per le persone che verranno. L'altra storia è quella di Don Giovanni Formasini, che è un altro giovane all'epoca, un giovane sacerdote che sceglie di restare accanto alla sua comunità in quei giorni così difficili e violenti e di fatto paga con la sua vita perché viene ucciso dai nazisti. Ecco, per noi andare a fondo di quelle vicende così tragiche e capire il contesto in cui quella violenza impensabile, nasce, ci sembra sia particolarmente importante e significativo proprio perché ci dà delle chiavi di lettura anche dell'oggi e del contesto complesso in cui viviamo e ci aiuta anche a capire e a riconoscere le dinamiche della violenza. Quindi per questo per noi era così importante pubblicare, questi due libri. Grazie Beatrice. E allora partiamo subito col primo libro di cui hai parlato, Vivere nonostante tutto. Qui con noi c'è Alice Rocchi, curatrice del libro, ma molto di più. Chiedo a te Certo. se ci puoi raccontare in che modo, anche molto vicino, questa biografia ti ha riguardato. Beh, inizialmente non diciamo, beh, buongiorno innanzitutto. Inizialmente non credevo che mi avrebbe riguardato così da vicino a livello emotivo. È stato solo componendo il libro che mi sono accorta di quanto in realtà questa cosa fosse dentro di me. Cornelia per anni ha testimoniato nelle scuole, anche grazie alla collaborazione della Scuola di Pace di Montesole, per anni si è fatta portavoce della storia che ha vissuto, che ha visto coi propri occhi. Lei lo dice, lei dice che l'ha sempre fatto perché questa cosa la faceva stare meglio, l'aiutava a rimanere salda nei suoi propositi di vita e diciamo un po' a purificare il dolore in qualche maniera, a trasformare questo dolore che si portava dentro. Poi negli anni è diventata una vera e propria responsabilità nella sua percezione, perché è stata quella di se non lo racconto io, chi se lo ricorderà? Se non racconto io lei in questo massacro ha perso i fratellini, Luigi Maria, 10 anni, e la madre. Dice, se non racconto io di loro, chi si ricorderà di loro? Senza contare che ha perso un'intera comunità. Era difficile magari da immaginare oggi, ma le comunità dell'epoca erano praticamente un clan allargato, una famiglia allargata, quindi non erano estranei quelli che sono morti con lei nel cimitero di Casaglia il 29 settembre. In famiglia questa storia non si è, cioè, era assolutamente nota, si sapeva che lei faceva questo lavoro di testimonianza attiva, Però io ero sempre stata un po' educata a non andare a chiedere, non andare a fare domande o a obbligarla a raccontare a me, perché lasciala stare, insomma, non tormentarla. Sono sempre stata educata al rispetto di questo dolore, che però negli anni è diventato una sorta di silenzio che evidentemente per me andava colmato. Per cui è stato un po' grazie a lei che spontaneamente, qualche anno fa, mi ha messo in mano questo manoscritto mai terminato delle sue memorie, senza farmi alcuna richiesta, ma mi ha soltanto informato che c'era questo manoscritto, e sono stata io spontaneamente a chiedere di poterlo leggere, benché ovviamente io conoscessi tutto, perché tutte le sue interviste me le ero lette e le sapevo a memoria. È stata la prima volta che quel racconto si è materializzato tra noi, ed è stata la prima volta in cui addirittura l'ho vista mettermelo in mano. Forse questo mi ha fatto sentire nella posizione di poter fare qualcosa per lei, perché c'è poco nella percezione di chi è in queste famiglie, cioè, diciamo, ti chiedi che cosa potresti fare per alleviare questa ferita, per colmare questo vuoto, e c'è ben poco da poter fare effettivamente. E nel ricevere questo manoscritto mi è venuta questa, non dico che mi è venuta un'idea, perché in realtà sul momento non sapevo neanche cosa stavo facendo, ma ho fotografato quelle pagine, le ho portate con me, le ho lette, e siccome erano scritte a mano ho istintivamente iniziato a batterle al computer, a riordinarle e a metterle, diciamo, in ordine, in modo che chi non conoscesse la storia potesse seguire il racconto, e poi gliel'ho fatto recapitare così in completo poi com'era. Temendo molto la sua reazione, perché in realtà non me l'aveva chiesto, è stata veramente una mia iniziativa. E poi invece la sua reazione, diciamo, ci ha portato qui. Era così contenta che qualcuno si fosse offerto di aiutarla a comporre questo testo, che per lei significa veramente molto, che, beh, insomma, il suo desiderio è stato realizzato. Quel poco che ho potuto fare l'ho fatto veramente volentieri. Grazie Alice, hai raccolto, e dopo ci racconterai anche di più su questo, ma passiamo al secondo libro, che è la storia di un'altra testimonianza storica sempre legata a Montesole, si intitola Fare tutto il più possibile, a cura l'autore è Angelo Baldassare qui con noi, ed è la storia di Don Giovanni Fornasini, il parroco di Sperticano. E, Don Angelo, io ti chiedo come siete venuti a conoscenza di questa storia e da quando? Buongiorno a tutti. Personalmente sono venuto a conoscenza della storia dell'eccidio delle comunità di Montesole da ragazzino, a 11 anni, nel 1983, quando mio babbo, che è stato segnato dalla guerra, dalla violenza della guerra, mi portò a Montesole perché mi disse: qui c'è qualcosa che devi imparare a conoscere. E poi nella mia vita sono state tante le situazioni che mi hanno avvicinato ai luoghi di Montesole come un luogo in cui capire meglio quello che è avvenuto nel passato per comprendere l'oggi, anche col desiderio di conoscere le vicende di tutti i cinque i preti che sono morti nel contesto della strage. Giovanni Fornasini, il giorno della strage, il 29 settembre 44, viene arrestato mentre cerca di aiutare dei rastrellati, viene tenuto prigioniero per una notte. Nei giorni successivi è mandato a Bologna, ma lui rientra nella zona di Montesole e diventa l'ultima vittima della strage, perché nei giorni successivi cerca di aiutare i superstiti, seppellisce i morti, ma la sua carità disturba le SS che hanno occupato la sua canonica e lo faranno salire a Montesole, lì lo uccideranno perché la sua carità disturba chi con la violenza pensava di impadronirsi del mondo. E a gennaio Papa Francesco ha riconosciuto nella morte di Don Giovanni un martirio, una testimonianza di carità di chi ha difeso la vita dove la violenza la voleva cancellare, e questo ci ha spinto a riscoprire non solo come Giovanni è stato nella strage, ma anche tutta la sua vita. E forse qui c'è un collegamento col libro su Corneglia. Non abbiamo voluto far emergere solo la carità e la sofferenza dei giorni della strage, ma tutta la sua vita, perché la vita di ogni vittima di Montesole vale la pena di essere riscoperta. Nella vita di Giovanni c'è una vita fatta anche di difficoltà, di fragilità, di insuccessi, di malattie, che però gli hanno insegnato a mettersi nei panni degli altri, come abbiamo messo nel titolo, a far tutto il più possibile per gli altri. Grazie Angelo, e ritorno sempre col testimone a Alice Rocchi che... Se posso solo dire una cosa, perché prego. È una cosa molto bella Angelo, che condivido. Credo che un po' sia anche a proposito di questo bisogno di raccontare e di testimoniare ciò che di così traumatico è accaduto a Montesole in quell'autunno, si è un po' trasformato questo bisogno di raccontare, almeno per come lo percepisco io, per come lo vedo io da erede, insomma, di questa vicenda. Questo bisogno di raccontare ciò che è accaduto senza separarlo da delle esistenze complete. Cornelia ci ha sempre tenuto inconsapevolmente a trasmettere il fatto che quell'evento è un episodio chiaramente marcante per una vita, ma è un episodio, non è tutta la sua vita. Cioè c'è una vita che esisteva prima in un certo modo, c'è il momento in cui è stata distrutta quella vita, ma c'è anche un ricominciare una vita dopo. È proprio un canto della vita, che è un po', secondo me, il messaggio che queste testimonianze, compresa quella di Don Fornasini, insegna. Invece tu, Alice, che hai raccolto il testimone di questa storia impensabile che riguarda Cornelia, come pensi che le generazioni future possano continuare a raccogliere storie, continuare a fare memoria? È così difficile ricordarci questo giorno, ormai sono passati 77 anni e quindi il monito rimane però ancora forte. Il monito rimane forte, la cosa forse più difficile per le generazioni di oggi è un po' faticare a percepire che quello che è accaduto riguarda anche loro. E il fatto di non avere un parente in vita che ti racconta che cosa è successo non significa che non ti riguardi nell'intimo. Io me ne sono accorta, pur non avendo mai toccato l'argomento con Cornelia, mentre componevo il libro, a forza di ascoltare testimonianze, sentire registrazioni, leggere documenti, insomma, il groppo emotivo è esploso a un certo punto e mi sono veramente sentita facente parte di quella comunità, facente parte di quella memoria, per cui la cosa più difficile secondo me per le generazioni di adesso da trasmettere ai giovani è questo messaggio di vicinanza e di intimità con questo trauma, perché non è che questa cosa non ce la portiamo dentro, non è che questa cosa, siccome è successa tanto tempo fa, ci lascia indifferenti, tanto più che leggendo questi due testi un sacco di problemi, di dolore, di difficoltà e di crimini si possono tranquillamente ritrovare anche oggi, nell'attualità di oggi, per cui può anche aiutare molto bene a reinterpretare e a guardare con occhio diverso ciò che accade oggi. Grazie, vi ringrazio tutti e tre i nostri ospiti, ringrazio Beatrice Orlandini, Alice Rocchi e Angelo Baldassarri. Siamo giunti ai saluti di fine puntata anche oggi e vi ricordo la rubrica a seguire. Oggi che è giovedì abbiamo le pillole di Antigone che ci parlerà del diritto allo sport anche in carcere e poi l'associazione Naufragi con idee di traverso. Scriveteci, mi raccomando, redazione liberidentro@gmail.com e come sempre un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese, Nea Flacco, Paola Leotti, Diana Bota e noi ci rivediamo domani. Grazie a tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.